Buona serata e benvenuti su Rock FM, la voce di Marco Gravelli a dare via il primo appuntamento della settimana, replicato poi il mercoledì sera sempre nello stesso orario qua su Rock FM. Lo spazio è quello di Hard and Heavy, 60 minuti al giorno dedicati al mondo dell'hard rock, della OR, del trash, speed, heavy metal in genere. Come sempre offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 qua a Milano. E come sempre il mio ringraziamento va all'autore Simone, che propone la scaletta di questa sera, che ci permette di iniziare con una band americana che risale al 1983. Sto parlando degli LA Guns, gruppo creato dal chitarrista Tracy Guns, il cui vero nome è Tracy Ulrich, insieme ad Axl Rose, insieme al batterista Rob Garner e al bassista Ole Bake. La band poco dopo si sciolse ed Axl creò gli Hollywood Roses, mentre Tracy riprese gli LA Guns. Le due band si unirono e diedero vita ai Guns N' Roses, ma poco dopo Tracy e Garner se ne andarono per ricreare gli LA Guns con Phil Labs alla voce. L'esordio della band risale al 1988 con l'omonimo album, che arrivò al numero 50 in America. Ancor meglio andò il secondo, Cooked and Loaded, che arrivò al numero 38 sempre negli States. E poi entrambi i lavori, c'è da segnalare, sono stati certificati disco d'oro, oltre 500.000 copie vendute. Il terzo album fu in linea con i precedenti e, visto il buon momento, venne registrato un live album. Purtroppo però la notorietà diminuì sempre più a causa dell'avvento del grunge, fino a sciogliersi nel 1994 per riformarsi un anno dopo e pubblicare un nuovo album. Da segnalare intorno al 2003 che Tracy prese parte al progetto Brides of Destruction e parallelamente fu allontanato dalla band. Pertanto il cantante Phil Labs ha portato avanti gli LA Guns, ma Tracy da parte sua ha creato una nuova lineup, anch'essa col nome LA Guns. Il risultato è che oggi ne esistono due band, una legata a Tracy e l'altra legata a Lewis. Allora, noi iniziamo il nostro spazio con l'album intitolato Hollywood Vampires, dal quale andiamo a proporre le note di questo brano, che è il motivo che apriva la B-side dell'album, dal titolo Dirty Love, LA Guns. I'm watching you. un po' sporco, Dirty Love 1991, l'album è intitolato Hollywood Vampire. Questo è il motivo che apriva la B-side di questo vinile per la formazione degli LA Guns, con il quale abbiamo iniziato l'appuntamento di questa sera, di questo lunedì su Rock FM con Hard & Heavy. E si prosegue con una band che arriva dal Brasile. Li abbiamo citati diverse volte in occasione dell'uscita del nuovo album di André Matos, perché i Viper sono stati la sua prima heavy metal band, creata nel 1985 da due fratelli Passarello, uno chitarrista e l'altro bassista. A loro si aggiunge il già citato André Matos alla voce e quindi un secondo chitarrista ed un batterista. A line-up completata registrano un demo e nel 1987 arrivano a pubblicare il primo album, Soldiers of Sunrise, con il quale in Brasile andarono di spalla in Motorhead almeno per una data. Il secondo lavoro è Theater of Fate del 1989, che vedeva una migliore produzione ed una sonorità più vicina al power metal europeo. A questo punto André Matos lascia la band, proverà ad entrare negli Iron Maiden. Se avete seguito l'intervista che abbiamo fatto con lui, gli ho posto proprio questa domanda, è arrivato sino alle fasi finali, c'erano lui e altri due cantanti e poi lui non è stato scelto. A quel punto lui andò a creare gli ottimi Angra. Ad ogni modo i Viper sono andati avanti anche senza di lui. Il ruolo di cantante è stato preso dal chitarrista Passarello. Usciranno così un altro album nel 1992, un EP, un live album pubblicato anche in Giappone ed un altro lavoro del 95, ma nonostante tutto non riescono ad ottenere un grande successo. La band ad ogni modo è ancora esistente, tanto che lo scorso anno hanno pubblicato un album nuovo, All My Life, che vede come special guest in una traccia gli ex Matos ed il chitarrista Passarello. Il lavoro che andiamo a prendere in esame è il secondo, Theater of Fate, con alla voce André Matos, è uscito nel 1989. Il pezzo si intitola At Least a Chance, si chiamano Viper. E André in quest'album aveva 17 anni. Dal Brasile la primissima band in cui ha militato André Matos, At Least a Chance, il titolo del brano, dal loro secondo CD, si chiamano Viper, l'album è Theater of Fate, siamo nel 1989. Andiamo invece alla prossima band, band che si chiama Paradox, quindi qui ritorniamo un po' alle cose più recenti. L'album è uscito nel mese di gennaio, è l'ottavo a 8 anni dal precedente Collision Course. Appunto a gennaio viene pubblicato questo Electrify per la thrash metal band tedesca dei Paradox. Leader e fondatore del gruppo è il cantante chitarrista Charlie, che insieme all'ex batterista hanno creato nel 1986 i Paradox. Questo quarto album, che si intitola Electrify, si compone di 10 brani mixate e masterizzate da Jacob Hansen presso i suoi studi personali in Danimarca, gli Hansen Studios. Il pezzo che vi propongo quest'oggi si intitola Monumentum. Hello hard and heavy listeners, here's Kai Pazeman from Paradox. Electrify your life and mosh it! Pezzo intitolato Monument per la formazione dei Paradox. direttamente dalla Germania con il loro thrash metal. Germania che viene abbandonata per andare di nuovo negli States con il gruppo americano, appunto, dei Dangerous Toys, che hanno proposto dell'ottimo sleaze metal, gruppo nato nell'82 quando si chiamavano Onyx, e nell'87 che entra in formazione il vocalist McMaster, proveniente dai Watchtower. Ottengono così un contratto per la pubblicazione del primo omonimo album nel 98, che andò molto bene, arrivò al numero 65 in America, andarono in tour con Alice Cooper, Judas Priest e Motorhead. In linea con il successo dell'esordio fu anche il secondo, Hellacious Acres, del 1991. Purtroppo per loro arriva il grunge, così il terzo album dal titolo Pissed del 94 fu un insuccesso. Questo portò a diversi cambi in line-up, sonorità che però non servirono a risollevare le sorti della band. Infatti il quarto album, che venne pubblicato nel 95 con un nome differente, fu ancora una volta un insuccesso, e questo sarà il loro ultimo album in studio. La band è ancora attiva, ha pubblicato nel 99 un live e un best of nel 2004. Dal primo album, prodotto da Max Norman, che ha già lavorato per Savatage, Megadeth e Ozzy Osbourne, andiamo ad ascoltare quello che è stato il singolo, il motivo singolo proprio del lavoro, uno dei due singoli pubblicati. Questo era Scared. Beh, penso che quest'oggi in scaletta abbiamo accontentato anche gli amici che spesso mi richiedono prodotti di questo tipo, con eleganza e appunto con i magari meno conosciuti ma altrettanto bravi Dangerous Toys. Sicuramente meno noto il prossimo gruppo, anche se è un gruppo importante alla fine, se non con questo album, con quello che è arrivato dopo. È anche abbastanza difficile da trovare, pur essendo uscito nel 1980, quindi 28 anni fa. Andiamo in Danimarca con i Bretz. gruppo che nasce proprio nel 1980 e quest'album si intitola 1980. Venne pubblicato per la CBS e sono il gruppo dal quale poi è partito la formazione dei Mercyful Fate. In effetti in line-up vi erano i due chitarristi, i giovani Michael Denner e Dunk Sherman, ma non solo, il cantante e bassista Jens Cheyenne, che in realtà si chiama Jens Leonhardt, oggi è conosciuto per essere il bassista degli Iron Savior, ha suonato nei Savage Circus, recentemente negli Stone Warrior. Ad ogni modo, per quanto riguarda questi Bretz, hanno registrato questo unico album intitolato 1980 Bretz. In seguito sarebbe entrato anche in formazione il cantante King Diamond e poi cambiarono il nome e fecero partire i famosi Mercyful Fate. Li andiamo ad ascoltare con il brano. Copertina di questo vinile è praticamente argento che riflette contro la luce. OY905, una sigla per questo pezzo. Beh, loro proponevano in parte metal, in parte punk rock and roll per questa formazione. OY905, pezzo d'apertura dei Bretz dall'album unico d'esordio 1980 Bretz. Got no reason to feel the way that I do. parte del nostro primo appuntamento della settimana di Hard and Heavy con Marco Gravelli su Rock FM con tante novità. Eh sì, ci sono alcuni nomi prestigiosissimi che sono usciti da pochissimo sul mercato. Abbiamo iniziato in effetti con questi House of Lords, gruppo molto noto, ne parleremo tra breve. L'album si intitola Come to My Kingdom e questo è proprio il pezzo che apre l'album e dà il titolo allo stesso. Ho scelto questo anche perché, spiego, ormai anche la Frontiers Records si è adattata al fatto che i promo album che ci giungono in precedenza sia per le radio sia soprattutto per i giornalisti, per far sì che non vengano poi messi in uploading su internet e quindi pubblicare il lavoro su internet ancora prima che esca nei negozi, vengono marchiati con il cosiddetto voice over, ovvero sia con il brano che sfuma sopra, qualcuno parla, dice che questo è il nuovo album degli House Lord, eccetera eccetera eccetera. Soltanto un paio di tracce sono pulite, diciamo così, permettetemi questo termine, tra cui questa Come to My Kingdom. Dopo la pubblicazione del loro live album, che avevo presentato anche nel nostro spazio di Hard and Heavy Live, il gruppo degli House of Lord torna con il loro ottimo melodic hard rock. Leader e fondatore del gruppo è stato il tastierista Greg Giuffria, che alle spalle aveva già due album con la sua band Giuffria. Ha fondato gli House of Lords nell'87. Infatti è grazie all'incontro tra Giuffria e Gene Simmons dei Kiss che nasce questa band, poiché Simmons convinse Giuffria ad intraprendere un nuovo progetto con un cantante differente. Quindi scioglie la band, stipula un contratto con la Simmons Record ed esce così nel 1988 con l'album di debutto, che entrò nei primi 100 posti delle charts americane. Dopo altri due album segue lo scioglimento nel 92, che durerà fino al 2000, quando gli House of Lords si riformano con la lineup originale, quindi con James Christian alla voce ma senza il fondatore Giuffria. Pubblicheranno il quarto album nel 2004, che in parte deluse le aspettative. Così rientra in formazione Giuffria, con il quale hanno inciso nel 2006 World Upside Down e che si è assestato su livelli molto buoni. Ed ora il turno di questo nuovo Come to My Kingdom, prodotto da James Christian. La band arriva in Italia per ben 6 date questo mese: il 25 di marzo alla Stazione della Birra a Roma, il 26 al Sottotetto di Bologna, il 27 al Black Horse di Cermenate, provincia di Como, il 28 alla Rockhouse di Pescara, il 29 al Lucid di Verona e il 30 al Peocio di Trofarello, provincia di Torino. Questo per gli House of Lords. Andiamo invece ad una band italiana che ospiterò prossimamente. Proprio questo giovedì effettuerò un'intervista telefonica, perché loro sono molto lontani da Milano, arrivano da Bolzano, si chiamano Scanners. Comunque suonano questo venerdì 21 al Motorocas di Mozzate in provincia di Como, in occasione della loro recente uscita di questo album The Serial Healer. È la storica band che esiste veramente dal 1982, con album quali Dirty Armada, Picture of War e soprattutto il terzo album The Magic Square del 95. Alle spalle hanno tante esibizioni dal vivo, hanno suonato insieme a Deep Purple, Manowar, Halloween, Ronnie James Dio, Motorhead. Li ascoltiamo con l'ottima produzione di questo nuovo album. Il pezzo si intitola The 17 Victim, The Scanners. Oh! Jones con The Serial Healer. Questo è The 17 Victim, registrati in Italia. Suona benissimo questo album, prodotto da lui, prodotto diciamo da Giuliano Mazzardi insieme naturalmente agli Scanners, però la registrazione, il mixaggio e la masterizzazione è stata fatta da Luigi Stefanini, ormai nei famosi ottimi Newsin Studios che si trovano a Loria Oloria, provincia di Treviso, e siamo quindi in Italia. Andiamo all'estero di nuovo con un altro importante nome. Vi dicevo, oggi vado a presentarvi delle grosse novità, House of Lords, questi in precedenza, poco fa, e Royal Ant, usciti questo weekend con il nuovo Collision Course Paradox Part 2, è il nuovo atteso album per la band che arriva dalla Danimarca, creata dal tastierista di origine russa Andre Anderson, atteso soprattutto perché hanno il nuovo cantante, ovvero sia al posto di John West che ha lasciato la band nel 2006 è arrivato il bravo Mark Bowles, che ha già cantato in 3 album di Malmsteen e 3 album con il suo gruppo, cioè i Ring of Fire. Mark Bowles è il quarto cantante dei Royal Ant. In effetti nei primi due lavori c'era Henrik Brookman, che è ora negli Evil Masquerade. Poi è arrivato il bravissimo DC Cooper dei Silent Force, con il quale sono stati pubblicati altri due album, soprattutto il bellissimo Paradox. E poi John West, con il quale hanno inciso 4 lavori. Questo nuovo Collision Course Paradox Part 2 è il seguito del loro fortunato concept Paradox. Si compone di 10 brani dove compaiono come special guest Dewey White, ex Rainbow e Malmsteen, Ian Perry degli Elegy, Kenny Lubeke dei Narita e già menzionato ex Henrik Brookman. Li ascoltiamo con The First Rock, Royal Ant. To the fold. Oh no, Appuntamento con le Metal News di questa sera. Si parte parlando degli Uriah Heep. In uscita il 2 di giugno il nuovo album per la storica band inglese. Il titolo sarà Wake the Sleeper. Ci saranno 11 brani. I Redemption, la power prog metal band americana che vede in formazione il cantante dei Fates Warning, il chitarrista degli Agent Steel, ha reso noto l'entrata ufficiale del tastierista Greg Horisharan, che aveva già suonato nella band come session man durante il loro tour. In tema di pubblicazioni hanno ormai completato i lavori per un DVD dal vivo. Communique, pronto il terzo album per la sorprendente metal band norvegese che aveva ottimamente impressionato con i due precedenti lavori. Il nuovo album si intitola Payment of Existence, si comporrà di 8 tracce nuovamente prodotte da Jakob Hansen, dovrebbe uscire il 30 di maggio. I Manticora, altra power metal band del nord dell'Europa, danesi, con ben 3 album in studio, torneranno in Italia per 3 date in maggio. Le prime 2 saranno di supporto a John Oliver Spain, il 2 di maggio al Fillmore di Piacenza, il 3 al Viper di Firenze, mentre il 4 maggio saranno headliner al Marmaja Live Club di Cusano, Milanino. Parliamo dei Kalma, heavy metal band finlandese. Arriva il 2 di aprile con il 5° album dal titolo Ford Revolution, registrato in Finlandia nei Tico Tico Studios e masterizzato in Svezia. Ci saranno ben 9 canzoni. Bruce Dickinson, il cantante inglese degli Iron, ha collaborato alla stesura del soggetto del film Chemical Wedding, che era anche il titolo di un suo concept album solista. Il film verrà presentato al Festival di Cannes il prossimo 17 di maggio. A 3 anni di distanza dal loro album di debutto, il 31 marzo sarà nei negozi il nuovo secondo album per questa symphonic metal band folk, composta da ben 6 elementi, dei quali 2 sono bionde fanciulle, una è la cantante e l'altra è la bassista, che appaiono anche in copertina di questo album. Il gruppo si chiama Midnastol. Le parti vocali sono state registrate presso i Master Sound Studios. Il suono è ottimo grazie al mixaggio curato dal bravo Tue Madsen e la masterizzazione dall'altrettanto bravo Mika Jussila presso i famosi Finnbox Studios. L'album sarà disponibile anche in limited edition con una bonus track. Da segnalare che la band, se non sbaglio, stando in parte ai titoli, viene cantata proprio in lingua norvegese. Nordic folk metal, così vi definisce la loro etichetta, che è la Napalm Records. Andiamo a proporvi il brano estratto appunto da questo loro album, la traccia numero 2, di cui non ci provo nemmeno a pronunciarla. Diciamo che il titolo, me l'ha tradotto appunto dal norvegese il buon Simone, significa luce della notte. Cantato proprio in norvegese dalla vocalist e poi l'altra bellissima fanciulla, entrambe bionde, è la bassista di questo gruppo. Uscirà alla fine del mese questo lavoro, non è ancora pubblicato. Norvegesi, Midnight Soul è il nome del gruppo. L'album si intitola Nordlys e questa era la traccia numero 2, dovrebbe essere Skogens Lengsel, almeno questo è segnato come titolo. E arriviamo all'ultima proposta, altro prestigioso nome, dopo avervi già presentato gli House of Lords, i Royal Ant, sempre per Frontiers Record, è uscito lo scorso weekend questo nuovo album importante dei White Lion, ritorna con un lavoro in studio con la denominazione White Lion dopo 16 anni e mezzo dal precedente lavoro. Questo si intitola Return of the Pride. La band, ricordiamo che nacque nel 1982 quando fu creata dal cantante danese Mike Tramp, il cui vero nome è Michael Trampenau, in seguito al suo trasferimento in Danimarca da New York. Il gruppo cominciò a prendere forma quando Mike incontra il bravo chitarrista Vito Bratta, che comunque non è presente in questo nuovo album. Al line-up completata arriva l'album d'esordio dell'85 con Fight to Survive, che gli valse il tour di supporto ai Crocus. Il grande successo arriva con Pride nell'87, prodotto da Michael Wagner, e arriva il disco di platino, quindi ben oltre 1 milione di copie vendute. Bene anche il terzo lavoro, Big Game, che però non arrivò alle primissime posizioni di classifica, ma andarono in tour insieme a Motley Crue. Il quarto album, Main Attraction del 91, deluse le aspettative creando malumori all'interno della band, che si scioglie poche settimane dopo. Nel 2004 Tramp riprende il nome di White Lion con i suoi Tramps White Lion, suonerà diverse date dal vivo, pubblicherà anche un doppio album, hanno suonato anche al Gods of Metal lo scorso anno. Questo è il nuovo lavoro, 10 brani più una bonus track per il mercato europeo, registrato in Danimarca ed in Australia. Con questo motivo, che si intitola Live Your Life, chiudo il primo appuntamento di questa sera di Arden Devi. Un grazie a tutti voi, dalla voce di Marco Gravelli, un grazie al nostro autore Simone, allo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Ci ritroveremo domani sera a partire dalle ore 20. Per ora è tutto, ciao ciao, grazie. Listening to the new White Lion album, Return of the Pride. You always want to be the best at everything you do, but is it fun when you fall down? You always knew it, that you could do it, anything you want. listening to the new White Lion album, Return of the Pride. Just open your eyes and take a good look inside.